Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Sugli abitanti in paese tenebroso risplendette una luce. Hai moltiplicato la gioia, hai causato grande letizia. Gioiscono al tuo cospetto come si gioisce alla mietitura, come si esulta quando si divide la preda. Poiché il suo giogo opprimente, la verga sopra le sue spalle, il bastone del suo sorvegliante, tu hai spezzato come nel giorno di Madian. Poiché ogni stivale strepitante in tumulto ed ogni mantello rotolato nel sangue sarà bruciato, alimento del fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato, nelle sue spalle riposa l'impero e lo si chiama per nome Meraviglioso Consigliere, Dio Potente, Padre Perpetuo, Principe della Pace, per accrescere il principato e per una pace senza fine, sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo e rafforzarlo mediante il diritto e la giustizia, da ora fino in eterno. L'ardore del Signore degli eserciti farà questo. Il Signore inviò una parola contro Giacobbe, ed essa cadde sopra Israele. Lo seppe tutto il popolo, Efraim e gli abitanti di Samaria, che dicevano nella loro arroganza ed alterigia di cuore: «I mattoni sono caduti, ma noi ricostruiremo con pietre. I sicomori sono stati tagliati, ma noi li sostituiremo con cedri». Contro di lui il Signore suscitò i suoi nemici ed eccitò i suoi avversari. Aram dall'Oriente ed i Filistei dall'Occidente divorarono Israele a piena bocca. Malgrado ciò, l'ira del Signore non scema e la sua mano è ancora tesa. Ma il popolo non tornò a colui che lo percosse e non ricercarono il Signore degli eserciti. Pertanto il Signore recise da Israele capo e coda, palma e giunco in un giorno. L'anziano ed il notabile sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda. Le guide di questo popolo lo hanno fuorviato, e quelli che sono stati guidati si sono smarriti. Perciò il Signore non sarà clemente verso i giovani e non avrà pietà degli orfani e delle vedove, poiché tutti sono increduli e perversi ed ogni bocca proferisce infamie. Malgrado ciò, l'ira del Signore non scema e la sua mano è ancora tesa. Sì, la perversità brucia come fuoco e divora spine e pruni, incendia il folto della selva che sale in alto come colonna di fumo. Per l'indignazione del Signore degli eserciti il paese brucia ed il popolo è come esca per il fuoco. Nessuno ha clemenza del proprio fratello. Si taglia a destra, si è affamati. Si divora a sinistra e non ci si sazia. Ognuno mangia la carne del suo prossimo. Manasse divora Efraim, ed Efraim Manasse. Insieme essi sono contro Giuda. Malgrado ciò, l'ira del Signore non scema e il suo braccio è ancora teso.